Sbaglio. Ancora mi sono stata. Ma teoria incontriamo un pinfa. Ma siamo te l'uomo d'oro? Ciao Sandro! Sai che è? Ma è il tuo per eccellenza?